di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di Giuoco per essere padroni di Giuoco. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, nostro autore, Fabio Cantadone in regia, Daniele Buonamici in redazione. Cassano a Tiki Taka ieri sera, due punti aperte virgolette. Aspetto con calma, se arriverà qualcosa di bello, di stuzzicante, bene, altrimenti me ne farò una ragione e starò fermo fino a giugno. Se a giugno non ci sarà qualcosa di stuzzicante, me ne andrò con mia moglie e i miei bimbi in vacanza da qualche parte. Non ho problema a lasciare questo mondo che in quest'ultimo periodo mi ha un po' deluso, non il mondo calcistico, la gente che ci fa parte. Pierluigi Pardo, buongiorno, due punti aperte virgolette. Come va? Come va? Ciao. Io bene. Ciao. Dove va? Quando va? No, dove va non si sa davvero. Insomma, io guarda, ti dico, al di là del ma sei rimasto sorpreso tu? Ma sì, guarda, la cosa è nata in realtà dopo la puntata di ieri, quando ho finito la radio, poi insomma l'ho sentito e mi ha preannunciato che c'era questa grande novità. E posso anche confermare quello che ieri sera abbiamo detto, insomma, che il tuo agente non è che fosse proprio molto d'accordo. Cioè, in realtà è un azzardo che si prende, la squadra non c'è. Poi è chiaro che a questo punto questo gli dà anche un'ulteriore pubblicità, no? Quindi è chiaro che adesso magari qualcuno interessato si farà vivo, ma ad oggi, da quello che mi risulta, non c'è nulla, come ha dichiarato lui ieri sera, e credo che Bozzo, che è il suo procuratore, insomma, non fosse particolarmente convinto di questo tipo di... Sì, anche perché ballano 4 milioni, lo ha detto lui, ho rinunciato a 4 milioni di stipendio, non sono pochi soldi. Chiaramente, tanto perché non è che ci abbiamo al naso, che ovviamente, sai, quando tu hai qualcuno che non ti paga, cioè 4 milioni sono un po' un'incognita, sì. da un punto di vista strettamente di diritto, è chiaro che lui aveva diritto ancora per un anno e mezzo a circa 2 milioni e mezzo l'anno netti, e quindi sui 3 milioni e 750, che sono soldi ai quali lui rinuncia. Poi magari sarebbe stato difficile riuscire a prenderli, però comunque in ogni caso la rinuncia è una rinuncia di questo tipo. Ma devo dire che lui, da questo punto di vista, l'ha anche dichiarato ieri sera, è fortunato, sa di esserlo, sa comunque di aver accumulato, di non aver sperperato soldi in carriera. E a me, devo dire la verità, è piaciuto molto, insomma, il momento nel quale ha sottolineato che poi dietro alla sua storia, che è una storia chiaramente di una persona agiata che può essere tranquilla, che fregarsene, grazie a Dio, poi ci sono quelli che guadagnano 1.000-2.000 euro che non prendono lo stipendio da mesi. Nello stesso Parma. Sì, appunto, sì. E non solo, ovviamente. Quindi, ma secondo te quante possibilità ci sono che torni a Bari? Guarda, non lo so, tra l'altro ormai dalla Bari faremo anche un collegamento, perché c'è la presentazione di questo film sulla stagione dell'anno scorso. Non lo so, io credo che veramente lui non lo sappia, credo che a questo punto diventa una roba abbastanza semplice. Cioè, chi vuole fare un'offerta, chi ci vuole provare, deve farsi vivo, insomma. Non lo so, certo, Bari sarebbe una storia, secondo me, bellissima, molto romantica, dal punto di vista giornalistico, insomma, se mi chiede un consiglio gli dico di andare, perché credo che sarebbe un modo per chiudere un cerchio in qualche modo. Non riconciliarsi, perché non c'è nulla da riconciliarsi, ma insomma, per ribadire una radice che per lui è profondissima, però non lo so, io penso che possano esserci anche altre offerte. Qualche offerta in realtà c'è, ma c'è da molto lontano, da quello che so io. Sono America, sono Dubai, cose... queste cose qui, dove ha detto che va dopo 40 anni quando non corre più, insomma. Esatto. Ma sai, lui è sempre, questo me lo dice da tanti anni, che non voleva finire nella condizione di giocare così con poca dignità, quando non era più in condizione di andare a elemosinare. È un uomo fortunato che ha buttato via tanto talento, ha guadagnato comunque tanti soldi, ha vinto comunque delle cose, io ti dico che poi alla fine, penso ieri sia venuta fuori questa cosa qui, una delle poche cose che ho imparato frequentando un po' è che poi alla fine ognuno deve vivere come gli pare. Sì. Sicuramente ha buttato delle occasioni, sicuramente non è un esempio di efficienza, di impegno per i ragazzi su valorizzare il vostro da, sicuramente no, ma lo fa pure lui. Però alla fine io penso che lui abbia vissuto fedele a se stesso, a quello che voleva fare, e qui tante volte la vita, l'importante è essere felice, eh? Non è che più scudetti vinci più sei felice, certo, nella tua vita, quindi il concetto è abbastanza più. Era uno importante che ha detto ama e fai quello che vuoi. Uno importante. Poi è ovvio, perché se tu mi chiedi se dal punto di vista, diciamo, della formazione dei ragazzi è un esempio di più lui o magari dei giocatori meno dotati tecnicamente che attraverso il lavoro, la fatica, l'impegno sono riusciti a vincere tante cose, io ti dico che certamente la seconda che hai detto, non ci sono dubbi, però poi alla fine ognuno deve fare quello che vuole nella vita. Se si comporta bene alla fine è felice e trova un equilibrio, ma che c'è di male? E io ti dico, da questo punto di vista, per me Antonio è una persona, al di là del rapporto personale, è una persona che io stimo da questo punto di vista tantissimo, perché penso che lui questo balance fra vita privata, vita professionale, valori veri della vita, eccetera, ce l'abbia abbastanza chiaro e abbastanza preciso in mente, e penso, senza fare lo il Freud de Noantri, che magari sia più felice di altri che hanno vinto di più. Questa è la mia percezione. Grazie Pier, ci sentiamo più tardi? Ci sentiamo dopo, sì. Lavoro in corso. È tutto un work in progress. Work in progress totale. Intanto io lancio una domanda a tutti gli ascoltatori. Chi vuole Cassano nella sua squadra? 800 24 00 24. Andiamo col traffico. Ha chiuso bene Bari, che prova ancora con Cassano, posizione regolare. Grande controllo in velocità di Cassano, in area di rigore. Cassano ancora, rientra sul destro. Antonio Cassano, 2-1. Tutti convocati. Ci può stare. Segni di un'età. Ci può stare. Ci può stare. Tanto chi lo decide cos'è meglio. Qua si può solo sognare e prendere tutto quel tempo di cui si ha bisogno. Tanto non serve sperare, vero? Non è. Sono stato 15 centimetri. Questo mi hanno chiesto millimetri. Ci può stare, va bene. Ci può stare. Il gol di Koulibaly. Ci può stare. Perfetto. Ci io può lo dico stare. Che ripeto che la Juve è una squadra fortissima e che può darsi che vincerà il campionato. Ma noi possiamo almeno lamentarci quando vediamo queste cose. Il mio sta in un capo che si apre quando inizio a scrivere. Dove prendere pallone dentro, intanto al Piolla lo sfiora, calcio di rigore, non voglio sembrare un Kuzka su Higuain, il Pipita 2-1, doppietta per lui. Stare appeso un filo non mi va, e anche se cado più giù, dimenticare i segni di un'età, so bene che ci può stare. E non parlo mai, ho parlato una volta, ma non parlo mai, credo che sono l'allenatore che non parla mai degli arbitri nel campionato italiano, e oggi ho visto 10 situazioni che possiamo analizzare, 10, ma sì, possiamo, vogliamo analizzare tutto. Va bene, perfetto, adesso io dico che la prestazione del Napoli è stata, per vincere la partita con più reti, è stato 2-1, ma credo che meritata 100%. Ci può stare. Allora, intendiamoci. A proposito, allora, Cassano ne parliamo dopo, quando volete. 800 24 00 24, numero verde. Abbiamo parlato prima con Pardo, torneremo a parlarne più tardi. Qualcuno dice è stato avvistato a Torino Spondatoro. C'è Allegri che ha parlato prima e che non ha chiuso la porta a Cassano, dicendo: in attacco faremo qualcosa, per adesso abbiamo 5 punte, però sappiamo bene come la quinta è Giovinco, che si sta spingendo, che la Juve sta provando a spingere fuori dalla porta verso la sua direzione già prevista, cioè Toronto. Questo è quanto. Mexes 4 giornate, con una mossa corretta da vecchio Milan, da Milan vecchio stile. Mexes è stato messo, accantonato, gli hanno detto stasera decisiva con la Lazio, ma tu per quella fesseria non giochi. 4 giornate, viene anche il sospetto che possa essere una mossa interessata per spingere verso la rescissione di un contratto che è pesantissima, chiama, se non ricordo male, 4 milioni di euro per Philippe Mexès. Mica poca roba. Poi, per quanto riguarda Benitez ieri sera, allora, quando è vero, il Napoli ha giocato molto bene, ha meritato di vincere, ha creato 1000 palle gol, ne ha sprecate 998, però quando gli aiutini vanno, cioè l'uomo nero, bianco nero dietro, o colorato, o l'ombra, o il disegno occulto, quando vengono, allora degli arbitri non parlo. L'ha fatto lui, l'ha fatto Garcia in Coppa Italia, provando a difendersi su quel rigore contro l'Empoli. Secondo me entrambi hanno perso una buona occasione per dire: signori, questa volta ci hanno dato una mano. Benitez avesse detto, mi spiace moltissimo dirlo, avesse detto: abbiamo giocato una grande partita, meritavamo comunque di vincere, l'abbiamo fatto con un gol in fuorigioco pari a quello di Cáceres e con un rigore che, se fischiassero tutte le volte questi rigori, ne vedremo 46 a partita. Quindi i fatti sono questi. Poi ci saranno i maliziosi che vanno a contare il pregresso del Napoli, ultimo rigore contro in casa 616 giorni fa, 5 maggio del 2013 contro l'Inter, arbitro Giannocchero trasformato da Alvarez. Quest'anno è l'unica squadra senza rigori contro, l'ultimo 30 settembre 2013, gol di Rossi Giuseppe a Firenze. Quindi questa è, anche questa è cronaca, semplicemente cronaca. 800240024 è il numero verde. Claudio Milano, buongiorno. Cominciamo subito con i convocati, subito. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo parlare un attimo dell'Inter e dire che io sono interista, chiaramente, da quando... È già due partite che vedo entrare le squadre in campo e Guarin con la fascia da capitano, e io già due volte che spengo la tele perché non posso vedere Guarin con la fascia di capitano. Va bene, però è stato uno... Ma lascia stare la fascia di capitano, Claudio, io posso anche capirla, però è stato uno dei meno peggio. Io piuttosto le chiederei che cosa prova quando dice, quando sente Mancini dire che con la Sampdoria, con le riserve della Sampdoria in 10 e con il Torino domenica, l'Inter ha giocato bene. No, l'Inter non ha giocato bene. Allora, al di là di Guarin capitano, No. Guarin non sa giocare a calcio. Detto questo, io sfido punto. Chiunque a dire che Guarin sia buon, sia capace di giocare a calcio. Guarin non sa giocare a calcio, detto punto. Detto questo, sì. Allora io ci sta che l'Inter perda 1-0 col Torino, quando però il portiere del Torino prende 10 in pagella. Non si sporca neanche i guantoni domenica, non si è sporcato neanche le mani. Esattamente, e quindi Guarin è uno dei 7-8 scarponi che attualmente giocano nell'Inter e fanno giocare male anche i 2-3 che potenzialmente possono essere dei campioni o comunque dei buoni giocatori. Purtroppo l'Inter è questo. Gente, mi conceda un altro secondo, perché sì, volevo parlare un attimino di Tavecchio. Sì. L'ho sentito ieri in un'intervista dire che fortunatamente a giugno ci sarà la telecamera per i gol non gol. Sì, ma lo sapevamo già, Claudio, non è che la... No, ma io ho sentito queste parole da Tavecchio, che diceva, Tavecchio ha detto letteralmente... Occhio di falco, occhio di bue. Occhio di bue, metteranno qualcosa. Allora, ragazzi... Ma questo è vuole risentirlo? Vuole risentirlo? Ma per piacere, ma questo è il presidente federale. Noi avevamo due candidati, un giovane di 40 anni e un nonno di 73 anni. Hanno eletto il nonno di 73 anni che non sa neanche parlare, ragazzi. Come? Ma che vergogna! Come ma previsto? Dai, vabbè, come era previsto? Sicuramente partiremo a luglio, perché ho avuto dai maggiorenti del calcio italiano, dal punto di vista delle società, assicurazioni. Però io non posso dire che partiamo dalla B, dalla A. La Lega dirà dove vuole partire. Noi daremo l'autorizzazione, e l'autorizzazione il Consiglio federale l'ha già data, la Commissione ha già esposto il tipo di... o l'occhio di falco, o l'occhio di bue, non so che cosa metteranno, ma lo partirà. Anche all'occhio di pernice, quello, il disegnino sulle giacche. Matteo Carpi, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo così. Perché squadra fa il tifo? Beh, Juve, bianconero. Lo vorrebbe Cassano? Ma potrebbe essere, diciamo, un'alternativa valida, ma dovrebbe venire lì a patti e condizioni che fa la quarta punta. E lui non accetterà mai un discorso del genere. Lui deve essere comunque protagonista, e potrebbe ancora esserlo, ma in una squadra di medio livello. Lo vedrei bene così, a sensazione a Firenze. Se parte Cuadrado, è un nome importante da buttare, ecco, un passa la piazza, tutto sì, qua. Sì. Beh, è chiaro che la Juve andrebbe, però questo discorso è in piedi, eh. Comunque, nonostante sembri piuttosto bizzarro, a maggior ragione dopo questa improvvisa rescissione contrattuale con il Parma, questa vicenda è in piedi. D'altra parte le parole di Allegri di oggi non ha smentito, ha detto ne abbiamo 5, Giovinco è in uscita, questo è chiaro, ha detto in attacco faremo qualcosa, quindi non ha chiuso la porta a Cassano, è evidente che non andrebbe lì a fare titolare. C'è Allegri? Beh, sentiamolo insieme. Di altri giocatori di altre squadre, anche se oggi da Cassano non è più nessuna squadra, non lo so, al momento noi abbiamo un reparto d'attacco dove siamo 5 attaccanti, poi le altre valuteremo, manca ancora un po' di giorni alla fine del mercato, e quindi innanzitutto un acquisto l'abbiamo fatto perché Barzagli è di nuovo disponibile, non è ancora al 100%, ha bisogno di lavorare, piano piano arriverà a una buona condizione, sarà in grado di giocare, quindi questa è una bella notizia per tutti, e quindi abbiamo riacquistato un giocatore, poi vedremo. Vabbè, acquisto di Barzagli, è chiaro che è una frase fatta, Barzagli lo stanno aspettando dall'inizio della stagione e ha avuto diversi problemi, è chiaro che è un giocatore importante eccetera eccetera, ma ovviamente il discorso è forzato, quello che interessa è questo sottinteso secondo cui Cassano tutto sommato la Juve schifo non farebbe, mi diceva? No, lo vedrei bene insomma, però si mette in casa diciamo la Juve una bomba, gli acquisti che ha fatto a gennaio la Juve non ha mai lasciato il segno, vedi Osvaldo e tutti gli altri, poi si metterebbe in casa una, nonostante abbia rimato il carattere, una piccola bomba che di cui non ne ha bisogno secondo me. Io darei più spazio a Coman piuttosto, che è veramente valido, veramente veramente valido, ecco tutto qua. Sì, questo può essere vero, io credo che la Juventus sia abbastanza forte comunque da disinnescare quella potenziale bomba dovesse decidere di prenderlo, però resta il fatto che Cassano alla Juventus interessa davvero, cioè comunque che la Juventus sul punto ci sta pensando. Giancarlo Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Beh, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete bravissimi. Sono juventino come che mi ha preceduto. Io vedrei molto, ma molto, ma molto bene. Cosa dice Cassano. Cosa dice dei due episodi di Napoli di ieri sera? Beh, allora, è facile lamentarsi quando te li danno contro, puoi far finta di niente quando te li danno fuori, no? Ovviamente. Io ho sempre pensato, avendo fatto anche dirigente sportivo settore giovanile, che in un campionato le cose poi alla fine si equilibrano sempre, sì. A volte gli arbitri ti favoriscono, a volte no, è un dato di fatto che chi è davanti solitamente, lo dico da juventino, ha sempre un mezzo occhio di riguardo diciamo, questo l'ho provato, ieri il Napoli ne ha avuti due, no? Questo che vuol sì, dire. Ma anche in Coppa Italia un doppio fallo di mano non fischiato, no? Mi sembra, quindi contro, cioè, ci sta, voglio dire, gli altri sono fallibili come tutte le persone al mondo. No, ma la settimana scorsa in Coppa Italia ne abbiamo visti diversi di questi di queste sviste, ne abbiamo viste diverse e tutte nella stessa direzione, cioè nella direzione della squadra più gettonata. Comunque, voleva dire di Cassano? Sì, no, dicevo appunto che Cassano io lo vedrei bene alla Juve, molto bene. Ricordo solo che quando abbiamo preso Tevez sembrava che avessimo comprato il diavolo in persona, no? Sì. Cioè tutti lo dipingevano come no, chissà che casini. E invece si sta dimostrando un professionista, e io che vado allo stadio praticamente tutte le partite a vedere, cioè non Tevez, c'è nulla da dire, voglio no, dire, a volte no, assolutamente, è solo la fama, no? Assolutamente. Tevez ha sorpreso tutti. Sì, Tevez ha sorpreso tutti, ha sorpreso tutti quanti, anche gli stessi juventini, come attitudine al lavoro, come comportamento, eccetera, eccetera. Cassano lo conosciamo bene. Ecco, e in linea poi di massima porterebbe un po' di anche un po' più di allegria, forse. Di allegria. O di mal di pancia, guarda, Buffon, Chiellini, chi lo ha avuto. Giancarlo, quello che dico però è questo. Allora, lo spogliatoio della Juventus è molto importante. Ha delle personalità, dei capi, delle guide carismatiche, dei guru molto pesanti. Quindi, davvero la Juventus dovesse andare su Cassano, io sono convinto che ci andrebbe con il placet dei mamma... No, questa parola non mi piace. Dei capi carismatici di quello spogliatoio. Ok, quindi sono abbastanza convinto di questo. Ananda Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io chiamavo, siccome era stato ospite da voi l'altro giorno con l'Antuono, sì. L'avevo chiamato quel giorno e non ero riuscito a prendere la linea, ma volevo appunto riallacciarmi a quello che aveva dichiarato sul fatto che a Bergamo comunque era contestato, gli aveva fatto anche lei una domanda del genere. Sì. E effettivamente volevo dire che dopo la partita che c'è stata contro il Verona, un pochettino i problemi dell'Atalanta si sono visti, che non è che si sono risolti dopo una partita con il Milan fatta bene. E capisco anche che lui aveva ragione nel dire che rispetto all'anno scorso i punti erano quasi gli stessi, per cui non c'era neanche una situazione drammatica. E che è vero. Però, e qualche giocatore importante è anche andato via. Sì, qualcuno è anche arrivato, diciamo, sì, è andato via Bonaventura, il resto della squadra è rimasta pressoché la stessa, con qualche innesto tipo un ottimo panchinaro in attacco. Ha avuto qualche problema di infortunio. Però l'Atalanta sta facendo il campionato che grosso modo deve fare. Io continuo a non capire queste contestazioni a Colantuono. È un bravo allenatore, però per quelli che siedono in curva ha un difetto. Non è abbastanza paracuro nei confronti degli ultra, perché è uno che gli dà il giusto peso, non è uno che ama dialogare tanto con i più oltranzisti tra gli abitanti della curva. Quindi poi può esserci la costruzione di un rapporto, la fine di un amore, possono esserci tante cose, può esserci la voglia di cambiare dopo diversi anni, però non ci sono motivazioni sportive, perché l'Atalanta sta facendo la stagione che deve fare, con diverse difficoltà, con un attacco che fa pochi gol, con una squadra che comunque non è lontanissima dalla salvezza, mi pare. Mi sembra stia facendo il suo campionato. 800-24-0024, numero verde, vi aspettiamo qui. Questa sera, secondo lei, il rigore ci può stare? Io credo che è netto. Convocati. Ho rescisso il contratto dopo una decisione di tutta notte e ho deciso che dovevo chiudere il rapporto non con i giocatori, non con l'agente di Parma, ma soprattutto con la presa per il culo di 7 mesi. Ecco. Con questa situazione che si è venuta a creare. Senti, sono stanco e ho deciso di lasciare tutto. Quando hai agganciato la palla con il tacco, in quel momento che cosa hai pensato? Ora faccio gol. Io non ho pensato a niente, ho proseguito la mia azione, con la testa me la sono portata avanti. Poi ho dribblato Georgatos, l'ho calciato in porta con la benda agli occhi. Dopo andava la palla. Fischi, mugugni, soprattutto nei miei confronti, sono venuto a parlare per dire che un pochettino mi hanno preso di mira dall'inizio alla fine. Questo è un messaggio che lancio. Io non ho problemi, l'ho fatto a Roma, l'ho fatto a Madrid, posso anche farlo qua, se a qualcuno non sta bene, faccio valigia e vado a casa. Ti prendono tutti in giro, ma perché? Ma io sono il Gian Burrasca dello spogliatoio. Al Milan una grande scelta? Assolutamente sì, però sempre nel cuore della Sampdoria. Sopra il Milan c'è solo il cielo. Dopo il cielo c'è l'Inter, va bene? È la verità. Io tengo a ringraziare Moratti, Branchi, Ausilio, ma non Mazzarri. Non Mazzarri per la sola motivazione, perché prima che lui firmasse mi aveva detto che io ero un titolare fisso. Poi ha firmato e mi ha detto che ero un titolare, sì, ma per andare a casa. Gian Piero Timossi dalla stanza dei bottoni del secolo XIX. Ciao Gian Piero. Ciao, come state? Benissimo, e tu? Io bene, poi sento queste frasi di Cassano e quindi mini felice. Cassano, pensa se adesso torna da te. Magari, torna tutta da la te. Vita. A Genova. Ma io decido che divento tifoso non di una squadra di campioni ma di una squadra di caffoni. Ho detto assolutamente, sono, voglio 11 giocatori caffoni in campo, tutti meravigliosi come Cassano, artisti nel rettangolo di gioco e veri in carogne fuori dal campo. Io, se mi fanno una squadra così, Mourinho allenatore, sto tutta la vita con quella squadra. Ti regalo pure McSess, di... vuoi anche McSess? Sì, McSess, sì, ma McSess è già un po' diverso. McSess, no, McSess, sì, di Cassano ha la qualità di dire anche delle cose, è diverso da tutti gli altri, è diverso da Balotelli. Io sono un tifoso accanito di Cassano, quindi se va a Bari, io quest'anno tifo Bari. Ho deciso. Ma Bari... esagero, voglio Grobelaar in porta, ve lo ricordate? Ah, Grobelaar, certo, come no, Grobelaar in porta. Chissà se è vivo, speriamo di sì. Possiamo fare insieme una formazione, secondo me non è nemmeno tanto difficile fare una formazione di... Ah, caduto, Giampiero Di Mossi, dove stai? Carmine Como, buongiorno. Buongiorno Genta e a tutti i radioascoltatori. Diga. Senta, vorrei ritornare un attimo alla partita di ieri, no? Quando Benitez dice che ci sono stati più episodi da analizzare, sì, dice una sciocchezza, perché in effetti c'era una mancata espulsione di Roncaglia quando fa il fallo su Higuaín, un rigore su Strinic, e poi vorrei capire il rigore su Higuaín, quello che poi ha deciso la partita, no? Se un calciatore che in fase di stacco viene spinto da dietro, difficilmente può mantenere l'equilibrio, quindi il fallo c'è stato. Non capisco perché tutta questa macchinazione, ma... nel dire che la partita del Napoli è stata inquinata, allora, la decisione no, inquinata, io dico che sono, secondo me sono due fischi generosi, cioè uno è fuori gioco e l'altro è un rigore assolutamente generoso. Già che siamo in tema, Giampiero Di Mossi. Ma sì, io la penso come te. Penso come te, sono stato anche sbeffeggiato su Twitter l'intera giornata, perché insomma, ovviamente io sono di Genova, quindi si pensa che il mio campanilismo mi induca a dire che era fuori gioco e non era rigore su Higuaín, però voglio dire, non è per quello che ti ripeto, voglio, tiferò tutta la vita una squadra di 11 caffoni e io credo che... Ti prendi anche Osvaldo allora? Ti prendi Osvaldo? Sì, Osvaldo sì. Osvaldo assolutamente. Osvaldo sì. Però anche mi sembra insomma che ci sia poca polemica da fare. Non faccio il tifo né per il Genoa né per la Juventus, ho grande simpatia per il Napoli, ma credo che ieri sera la partita sia stata assolutamente compromessa nel risultato da almeno due gravissimi errori. Poi il Napoli avrà giocato meglio, sì, avrà creato più occasioni, però così è andata. E mi fa sorridere, mi innervosisce anche un po' la dichiarazione di Benitez a fine partita: io non parlo mai di arbitri. Come? Ha parlato di arbitri tre giorni fa, quindi, quattro giorni fa, no, ci può stare. Per errore ho ritweetato anche un tweet del presidente del Napoli che diceva che i sei direttori di gara dovevano restare fermi a lungo. Poi ho guardato la data, erano dei primi giorni di gennaio, pensavo fosse di ieri sera. No, ma il fatto è che questo vale anche per Garcia, oggi hai titolato tra l'altro pastiera napoletana, mi pare. Sì. Ma comunque, ma sì, vale guarda, per tu, l'abbiamo cioè, detto io e Pardo qualche giorno fa. Allora, Garcia in Coppa Italia contro l'Empoli e ieri sera Benitez hanno perso, secondo me, un'occasione per aumentare la loro credibilità, perché anche se escono a dire: oh, ci ha detto male tante volte, ci ha detto male con la Juventus, stavolta ci ha detto bene, non succede nulla, no? Sì, sono d'accordissimo con te. Dopodiché non credo neanche che si dice: ah, arrivano in Italia e imparano i vizi di italiani. Ma no, ma sono così ovunque, il calcio è così ovunque. Dai, forse non è così in Inghilterra, ma in Spagna è così, in Francia è così il calcio ed è... e le polemiche sono all'ordine del giorno, cioè non pensiamo di avere l'esclusiva, sì, delle stupidaggini post partita, sono cose che si fanno, insomma, poi le pressioni sono molte, poi comunque quest'anno, diciamo la verità, io continuo a dire, il campionato è triste, probabilmente il distacco della Juventus è già definitivo secondo te? Comunque per me assolutamente inatteso in questo momento della, sì, stagione. Sì. Perché se guardo le formazioni in campo, se guardo l'organico della Roma, io continuo a trovarlo qualitativamente superiore a quello della Juventus, però non è andata così, insomma. Quindi voglio dire, le polemiche sono, secondo me, sono anche polemiche di serie B pure quelle quest'anno, insomma, non mi sembra che mi sembra che sia un campionato tutto sommato poco allegro. L'ultima cosa. Quindi grazie a Cassano che ieri ha fatto una cassanata. Ieri ci ha movimentato un po' la vita, no? Intanto sì, potrebbe movimentarci. Però ha ragione, anche... però io posso dire che ha ragione, scusa se ti interrompo, sì. Ma ha ragione, perché questa storia dei magazzini, ora molti diranno un'invenzione, invece no, parlando con una trasmissione con Ghirardi, col presidente del Parma, che pensano di essere nemici forse in questo momento, ma invece sono un po' entrambi sulla stessa barca, forse presi per il naso da qualcuno. Ghirardi proprio ci ha raccontato che Cassano si è più volte agitato nello spogliatoio per dire vabbè, ma ci sono i magazzini che non prendono i soldi, insomma, queste cose qui, sarà retorica, tutto quello vuoi, però io vorrei avere un amico come Cassano che fa così una cosa. Certo, certamente. No, ma abbiamo sottolineato molte volte che i problemi del Parma non sono il pagamento dei giocatori della Rosa di Serie A, sono il pagamento di molti dipendenti che non prendono i soldi da mesi. Esatto. Quindi questo è verissimo, e questo va sottolineato in rosso. Ultima spiaggia per Inzaghi stasera, per chiudere, Giampiero? Sì, però il Milan è spiaggiato, quindi voglio dire, cambiando Inzaghi non cambierà niente. Vedevo le dichiarazioni di qualche 3 anni fa, Saponara, Balotelli, non mi ricordo neanche più chi, dovevano essere il futuro, il Milan dei giovani. Balotelli non gioca più a Liverpool, Saponara ha segnato a Empoli, e il terzo, che è un difensore del quale in questo momento mi sfugge il nome, credo che giochi a Pescara. Insomma, sono tanti anni che il Milan sbaglia, quindi non è colpa di Inzaghi, probabilmente ho sbagliato anche a prendere questo leva. Io continuo a insistere, malgrado le smentite della società, io credo che Berlusconi stia pensando davvero di vendere la società. Grazie Giampiero, buon a lavoro. Voi. Grazie, ciao. Grazie Giampiero Timossi. Traffico. Oh, ma io la Sampdoria, da quando sono andato via, spero di tornare, però in questo momento qua mi sembra una cosa ridicola che ho chiuso col Parma per dire voglio andare a destra, a sinistra, su, giù. Adesso mi voglio prendere un po' di giorni di vacanza e rilassarmi, perché da quando ho firmato poco tempo fa, 2 ore fa, sono sereno, perché mi sono tolto da un'agonia che non ne volevo più sapere. Bello so io, perché so pure bello e non truccato. Tutti convocati. Bello e non truccato. Vediamo se dopo Eto'o prende anche Cassano e fa una Sampdoria spumeggiante ancora di più. Presidente Ferrero, dato Sampdoria benedetta dalle stelle a differenza del Genoa, perché delle due genovesi è quella che l'Aiutino ce l'ha avuto in questo turno. Aiutino, io dico, di quello di Morganella era gol, l'anno prossimo non li vedremo più. Avremo l'occhio di bue, come dice il presidente Tavecchi, sorella di porta, ben venga, benedetto sia. Ma io comunque sono sempre al 100% in situazioni di questo tipo per la soluzione di quell'inutile personaggio che sta sulla linea di fondo, cioè il quarto, l'arbitro di fondo campo. Antonio da Teramo, buongiorno. 80024 0024 per voi convocati. Buongiorno. Buongiorno, mister. Dica. Senti, io sono un tifoso del Napoli, sono contento per la prestazione ieri, un po' meno per come sono arrivati i 3 punti, perché comunque non piace vincere così, e mi sono sentito juventino ieri, Juventino, non esageriamo. Sì, mi sono sentito juventino e non mi piace essere juventino. Ci può stare, dice Rafa Benitez. Guardi, io sono dell'idea che sono cose che vanno e vengono, no? Però quello che importa è non stare a dire però mi hanno dato questo che non c'era, però ce n'era un altro, però di arbitri non parlo. Quello che dico io è siamo coerenti, cioè se dici stasera mi ha detto bene, cioè, io fossi venite stasera mi ha detto bene, la volta che mi lamento ho più credito. Oggi di arbitri non parlo perché non mi conviene, prossima volta vediamo. Quindi non... poi il Napoli ieri sera ha giocato bene, ha giocato, cioè il quadro della partita dice che il Napoli ha ampiamente meritato i 3 punti. Poi continuo a non capire perché Martens stia seduto, non so se per ragioni di equilibrio, perché De Guzman fa meglio quel lavoro di pendolo, corre di più, questo non lo so, però si è anche mangiato 2 gol da coprirsi gli occhi. Quindi, ma Antonio, juventino, no, mi sembra troppo, mi sembra, no, mi sembra tanta cosa, ma vanno e vengono, un po' a loro un po' più vengono. un po' più vengono. Beh, comunque dato 616 giorni senza rigori contro per un Napoli, mica male, eh. Magari qualcuno una buona media, eh. Sì. 30 ottobre 2013, gol di Giuseppe Rossi a Firenze, giusto Giorgio De Luca? Giusto. Luca Genova, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Buongiorno a tutti. Carlo, allora, Luca da Genova, innamorato della Sampdoria e di Ferrero. E di Cassano. Sì, come giocatore, come testa, no. Vabbè. Io ne conosco di cose di Cassano, ha giocato qua e a Bogliaschi, il nostro campo, ha litigato, pure con i ragazzini litigava, è malato. Carlo, fidati di noi, è malato di te. Beh. I bambini chiedevano un autografo e lui si incazzava e ce l'andava. Sì, sono così, certi atteggiamenti poco comprensibili. Poi magari si sbatte, come diceva prima Giampiero Timossi, per lo stipendio dei magazzinieri, così. No, quello gli fa il sindacalista, lo so, però è malato di testa, però in campo lo adoro. Carlo, ieri ho visto Napoli con la squadra di Genova, sì. Siamo sinceri, la colpa di queste chiacchiere è del Napoli, perché se Napoli ce ne fa 4 subito e ci ha avuto le chance, finisce 4-0, al massimo Genova ne fa uno, finisce 4-1. Vabbè, Palermo, capito, ma se mio nonno aveva le ruote, se anche te, lo so, allora. Però Morganella, è andata così, Morganella era gol, assolutamente, perdevamo 2-1. Però al primo tempo poteva essere 4-0. Ho capito, Luca, ma siamo sempre lì. Con i se e con i ma non si fa la storia. Possiamo andare avanti con i proverbi, possiamo inventarcene anche degli altri. Poi la storia invece ha detto questo: Morganella era gol, ma ripeto. Finiva 2-1. È vero, finiva 2-1 per ma loro. Chi lo sa, non lo so se finiva 2-1. Era gol, era. Magari la Sampdoria ne faceva altri 3, questo non lo so. Fatto sta che in casi come quello io propendo sempre per la soluzione. Ben venga la tecnologia, cosa che arriverà con l'occhio di bue, come ho detto prima. Quanto a ieri sera, il Napoli ha dominato la partita con il Genoa, se ne faceva 7 non stavamo a discutere, ne ha fatti 2 e nessuno dei due chiarissimo, uno in fuorigioco e l'altro con quello che io continuo a pensare sia un rigorino. Dai, facciamo i bravi, cioè è vero, questo salta, quell'altro gli appoggia mani addosso, Higuain che è un omone, finisce per terra, è un rigorino. Giorgio, ci può stare. Giorgio Prato, buongiorno. Ciao Carlo, ma dai non scherziamo Carlo, al Napoli gli stanno regalando le partite. Io da tifoso Viola sono imbestialito di questa cosa. Parliamo un attimo di Calvarese sta al Napoli, ieri sera l'hanno definito i tuoi colleghi di Sky, l'arbitro portafortuna del Napoli. Calvarese sta al Napoli come era Calbuto 10 anni fa, stava al Messina, quando il Messina era nell'orbita Moggi, solo che poi era Calbuto nel 2006, è stato prima condannato da Calciopoli, dopodiché si è beccato 18 mesi di condanna penale. Ma secondo me ti spingi un po' troppo in là. No, però scusami Carlo, guarda i numeri, l'hai detto te, il Napoli sono 2 anni che non ha rigore in casa. Ma mica lo arbitra sempre Calvarese, voglio dire. Secondo me ti spingi un po' troppo in là nel fare dei paralleli che secondo me non hanno diritto. Sì, ti faccio venire, però non hanno diritto di cittadinanza, dimmi. Fammi finire il concetto. Dimmi. Tu se ricordi un anno fa Fiorentina-Napoli, giuro che non me lo ricordo, giuro. Allora ti rinfresco la memoria. Io arbitro Calvarese, sì. 5 minuti da fine, un rigore non come quello di ieri sera finto, un rigore colossale su Quadrado, non ha dato rigore, ha dato il secondo giallo a Quadrado, sempre il solito arbitro Calvarese. Guarda caso, le stesse cose le dicevano 10 anni fa di Racalbuto, ma cosa dite? Poi Racalbuto si è beccato la radiazione e 18 mesi di condanna penale. Ho capito Giorgio, fallo fatti, no, fatti. Giorgio De Luca mi conferma, fallo di Inler su Quadrado, c'era arbitro Calvarese, però quello che dico io è: Napoli può essere fortunato con quest'arbitro, può essere che, insomma, diciamo quello che, o pensiamo quello che vogliamo, però quello che non ci sta secondo me è il parallelo tra un arbitro che sta arbitrando adesso e certe storie pregresse, dire questo è come quello e non ci sono santi. Questo è questo il sillogisma che non mi torna, voglio dire. Poi c'è l'Udinese che è sfortunata, come si chiama, con Valeri mi pare, e non lo vuole più. C'è il Napoli che è fortunato con Calvarese. Poi io uso la parola fortuna, voi usate quella che vi, o pensate quella che vi pare. Enrico Trento, buongiorno. Buongiorno, grazie per la compagnia. Volevo intervenire su Cassano, che secondo me è sopravvalutato perché non ha vinto Quasi niente, diciamo. Ecco, tutto qui. Grazie. Sì, grazie a lei, Enrico. Ma qualcosina ha anche vinto nella vita Cassano. Se poi diciamo che ha fatto forse un quinto di quello che il suo talento gli avrebbe consentito, non andiamo lontano dalla verità. Però, insomma, ci sono giocatori che hanno vinto di meno, ma ha ragione prima Pierluigi Pardo, che lo conosce bene e che ne ha una stima profonda, nel dire che comunque rimane grosso modo fedele a se stesso, quindi fa questa scelta. Io non credo che davvero che si voglia ritirare, credo anche che potrebbe avere dei corteggiatori o delle offerte in giro, dunque stiamo a vedere che cosa succede. Bene ragazzi, direi che adesso, tosse permettendo, andiamo a sentire il giornale radio, poi torniamo insieme, raffreddore, scusatemi, torniamo insieme, abbiamo altri ospiti. 800 24 0024. Cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Arrivo, un attimo. Tutti convocati. I giocatori sono sempre con Inzaghi, non lo dico così per di voce, ma è tutti che lo pensano così. Dobbiamo riportare un po' di gioia sul campo, perché quello secondo me è quello che manca a questa squadra. Secondo me ci dobbiamo divertire di più. Ormai la Champions è un po' lontana, diciamo, dai. E per quello che la partita di domani è molto importante per noi, perché andare lontano nella Coppa si può sperare qualcosa, fare magari l'Europa League, quello vediamo. Già la partita di domani sarà importante per noi, e poi io cerco di fare il massimo e darò sempre il massimo, perché ho avuto la fiducia del mister, del club, e io non posso sbagliare. Quando do una parola la tengo fino alla fine. Questo il Menez pensiero espresso alla vigilia di quella che potrebbe essere l'ultima notte di Filippo Inzaghi sulla panchina del Milan, almeno così pensano in molti. Intanto, cronaca, il Milan, ed è ufficiale, ha preso Salvatore Bocchetti, che torna in Italia dallo Spartak Mosca in prestito per 6 mesi, domani le visite mediche. Intanto, il Milan ha preso anche Mattia Destro, con la Roma c'è l'accordo, è in corso l'incontro tra Galliani e Vigorelli, procuratore e giocatore, per mettersi d'accordo sul da farsi. Il signor Stefano Eragno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Senti, arrivano due giocatori, Bocchetti e Destro, che praticamente è fatta. Sarà l'ultima notte di Pippo Inzaghi? Ma io, da amico e da tifoso, spero di no. Vorrebbe dire che questa sera si dovrebbe, almeno io mi auguro, vedere un altro Milan, quello che in questo momento ha tante difficoltà, a partire da molti infortuni, che poi secondo me sono correlate le cose. Quando c'è tensione in campo, tensione fuori, i risultati non arrivano, anche gli stessi sforzi vengono duplicati senza poi ottenere risultato, anzi il negativo è che fai tutto con grande stress e spesso ti infortuni. Infatti secondo me anche questo è da mettere, sì, un po' sul piatto della bilancia, dove Inzaghi cerca, anche se purtroppo sino a questo momento non si è visto granché proprio sul piano del gioco, ma questo penso che sia anche il fatto di ottenere qualche risultato, magari sull'onda dell'entusiasmo, cercare di costruire qualcosa in questo momento. Sì, la sensazione è che non ci sia un piano B nel Milan, si vorrebbe giocare di ripartenze, si vorrebbe giocare in quel modo, però la corsa mi sembra poca, il centrocampo mi pare scarso, e mi sorprende il fatto che Bocchetti per la difesa, e ci sta con Maxès che è stato praticamente messo fuori rosa, si lavora per la risoluzione del contratto, che peraltro è pesantissima e potrebbe essere un buon pretesto questo comportamento, queste 4 giornate di squalifica. Si lavora per l'attacco di nuovo con Destro, non pare si pensi a un centrocampo che mi sembra ridotto ai minimi termini dal punto di vista qualitativo soprattutto. E beh, adesso in questi, poi, in questi momenti si evidenziano poi tutte le magagne, no? Invece di mascherarle col risultato, quei risultati negativi si scoprono tante cose che non vanno. È normale che adesso l'arrivo di Destro davanti e Bocchetti dietro potrebbero certamente dare una grossa mano, però bisognerebbe dare anche una svolta a quello che si vuole sul campo, perché Destro è una punta centrale e Pazzini lo avevi in casa come Torres, eppure non l'hai mai preso in considerazione, perciò questo bisognerà vedere. Sicuramente sarà un cambio di modulo, oppure lo stesso modulo però con una punta centrale. E da quando fai questo, però Menez, che è un giocatore che ha dimostrato di avere grandi qualità, però lasciandolo un po' libero di muoversi in tutto il campo, mentre invece se lo sposti su una fascia o sull'altra, forse anche lui magari non riuscirà a fare quello che sta facendo adesso, invece più libero e spensierato di tutti gli altri. I tifosi se la prendono con Gagliani, c'è stato anche questo comunicato nei gruppi più oltranzisti, la tifoseria rossonera, Gagliani via, colpa sua se arrivano solo parametri zero, strapagati, eccetera eccetera. Mi sembra che ci sia parecchia confusione dentro lì, Ma io penso che è normale che poi Gagliani passi per il capo espiatorio di tutti, di tutto, però secondo me bisogna vedere un po' la società cosa ha deciso, perché non penso che faccia di testa sua. Certo. Se non ci sono soldi e si cerca comunque di guardarsi intorno, e non credo che il Milan sia meno di tante squadre che sono venuti qua a Milano a vincere contro il Milan, perciò secondo me la rosa del Milan con tutti i suoi problemi però non è certo peggiore anche dello stesso magari Napoli, che è in fase difensiva forse come nomi a meno, no? A centrocampo non è che ci siano quei grandi fenomeni, perciò secondo me è da costruire, ma con tranquillità. Troppo adesso la tranquillità manca, e quando non vengono i risultati con un gioco non gioco, perché si è visto l'ultimo Milan che veramente fa fatica a creare anche occasioni di gol, oltre a concedere molti spazi in fase difensiva, perciò diciamo che il problema grosso è quello di non avere un equilibrio in squadra che ti permette di giocare da Milan come è sempre stato il Milan, comunque anche pur perdendo, però se non crei diventa difficile. Poi torniamo al discorso del peso della maglia, che è chiaro essere in difficoltà ed essere sotto pressione a San Siro con la maglia del Milan, è chiaro essere sotto pressione da un'altra parte con una maglia magari più leggera. Questo vale per tutte le grandi squadre ed è un discorso che, l'ho detto ieri, potevamo praticare anche per la Juventus di Del Neri, per quella di Ranieri, eccetera eccetera. Certo. Il problema adesso, sanno che il Milan ha dei problemi scusa il gioco di parole, però certamente adesso vengono a San Siro tutte le squadre, quando prima si spaventavano della cornice, della maglietta, adesso vengono qua e ce la giocano alla pari, se non cercando di mettere ancora più in difficoltà una squadra che anche con il popolo rossonero, la tifoseria, adesso si sta inclinando qualcosa. Perciò ci sono anche tanti giocatori giovani che non sono abituati, e tanti giocatori stranieri che per il primo anno sono venuti qua al Milan, devo dire che non sono abituati a avere questo tipo di pressione, perciò devo dire che è un momento veramente forse uno dei più difficili in assoluto. Sì, hai ragione, gli altri non sono fessi, giocano anche su queste pressioni, perché sanno che comunque ti trovi di fronte a una squadra che serena non può essere. Rispondiamo insieme a un paio di ascoltatori. Stefano Gennaro da Roma, buongiorno, dica. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. No, io ho chiamato perché avevo sentito quel Giorgio di prima dire delle cose incredibili sull'arbitraggio di chi? Di Calvarese del Napoli. Cioè, che lui diceva che Calvarese sta a Napoli come. Sì, me lo ricordo, Calvarese sta a Napoli, Calbuto ha tirato fuori. No, ma un po' volevo ricordare di pregresso. Magari ci sta anche sentendo, che Calvarese gli ha dato l'ultimo rigore che ha subito il Napoli contro la cui la Fiorentina, che non c'era. Che poi non ha dato all'ultimo quadrato, nel primo tempo aveva dato il rigore. Aveva dato il rigore a Fiorentina che non c'era. Io così indietro non ci vado, mi spiace, non ho memoria storica, questo, soprattutto sui rigori. Quello su quadrato c'era, non l'ha dato, gli ha dato una Fiorentina che non c'era. Napoli, mi corregge qualcuno, 631 giorni senza rigori contro. Ieri sera contro il Genoa, che è stata una squadra importante per Stefano Aragno, ha giocato una splendida partita decisa da due episodi che sono, insomma, valutabili a occhio nudo, no Stefano? Eh beh, sai, purtroppo io dico sempre che nel calcio si prende e si dà. Sì, però quando si prende, scusami, bisognerebbe... No, quando si prende, quando si incassa, bisognerebbe anche dire, non parlo degli arbitri, bisognerebbe anche dire, magari, vabbè, stavolta mi è andata bene, no? No, ma infatti io dico, purtroppo non c'è questo stile, questa classe nel mondo calcistico, perché si dimentica in fretta quando le cose te le danno a favore, no? E mentre invece quando subisci un torto, subito dimentichi di quello che hai avuto prima. Perciò io penso che nel calcio, come ho detto, ci sia la legge di compensazione, magari non nel breve termine, però sempre e comunque ti danno qualcosa che non meriti e viceversa. Perciò bisogna stare tranquille e far vivere la terna arbitrale con meno pressione possibile, magari aiutata con invece del quinto uomo sulla riga, che vedi inutile, contro dai, la Stamp, il Palermo, che era posizionato perfettamente, si è visto perfettamente che la palla era entrata di perché eppure non l'ha vista. Perciò però io tendo sempre alla soluzione, Stefano, in questi casi, perché è veramente difficile. No, ma appunto, dico, occhio nudo è difficile. O decidiamo di mettere la mobile in campo e poi gestirla nel migliore dei modi, come magari in tanti altri sport fanno, non assiduamente, perché poi dipende anche se l'azione ha fruttato il gol o meno. Certo. Perciò anche lì sono tempi che non devi perderci molto tempo. Poi c'è il quarto uomo fuori dal campo, magari lo usi per vedere il video e basta un sì o un no attraverso queste radio che hanno, no? Frequenze che possono certamente aiutare ma contento di quello che verrà, cioè di quello che Tavecchio ha chiamato l'occhio di bue, che ovviamente non sarà così, ma sarà l'occhio di falco, la God Line Technology. Mi accontento di quello nel breve termine, in modo da risolvere quei problemi geometrici che a occhio nudo sono estremamente difficili. Un'ultima cosa, Stefano, la Roma regge? Ma adesso sta perdendo qualche colpo, anche perché ha vissuto molto sulla velocità di Gervinho, no? Oltre alla qualità della squadra di gioco, ma lui era veramente quello che spaccava un po' la squadra avversaria con questa accelerazione. Problema, mancando lui e avendo davanti giocatori bravi sì, ma un po' compassati, questo diventa un pochettino più difficile. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Stefano Aragno. Allora, stasera la partita decisiva per Inzaghi e per il Milan, ma partita importante anche per la Lazio. Lazio che ha sostituito l'infortunato Djordjevic con Bergessio. È ufficiale, Giorgio De Luca? Sì, no, non è ufficiale, ma l'affare, sì, questo matrimonio sa da fare. Bergessio passa dalla Sampdoria portandosi dietro un bel 3 giornate di squalifica. Bella idea, passa alla Lazio. Se a Close viene a raffreddore, Pioli ha qualche problema. Intanto alla vigilia parla così. È un'altra partita, un'altra storia, ma ripeto, non deve cambiare il nostro approccio, non deve cambiare il nostro impatto. Vogliamo andare avanti, vogliamo fare di tutto per vincere la partita e poi torneremo molto con molta concentrazione, testa bassa sul campionato. All'arbitro arbitrerà sicuramente nel modo migliore possibile, su questo non ci devono essere dubbi. Visto anche lei negli ottavi non ci di devono finale. Essere dubbi, poi dopo parliamoci chiaro, come l'allenatore sbaglia ogni tanto qualche scelta, i giocatori sbagliano qualche passaggio facile, qualche gol facile, e l'arbitro può anche sbagliare qualche scelta. Poi stasera, in caso di aiutino al Milan, sentiamo cosa dice Pioli. Roberto Modena, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per essere convocati. Dica. Volevo una sua opinione sulle 4 giornate di Mexes. Io penso pure che poche. Troppo poche. Se si vuole combattere un po' più la violenza in campo, bisogna dare dei segnali forti. 7-8 giornate secondo me erano una giusta punizione, una bella multa. Guardi, non so fare. Guardi, io non voglio né stare a sindacare su quale sarebbe stata la pena corretta, né stare a fare un raffronto su altre squalifiche di 4 giornate come molti hanno fatto. mi limito a dire che insomma sul principio sono d'accordo con lei, è stato un episodio molto eclatante, molto volgare, e quattro giornate a me sembrano davvero il minimo sindacale. Detto questo, con ogni probabilità il Milan, che ha fatto una mossa perfetta nell'escluderlo dalla lista dei disponibili per Inzaghi, pure una partita importante come questa sera, il retropensiero è che, e non è un retropensiero dato che ci sono delle voci in proposito, potrebbe utilizzare questo episodio e questa squalifica magari per risolvere il rapporto peraltro già abbastanza consumato con Philippe Mexès, che guadagna un sacco di soldi. Ripeto, oggi è stato preso Bocchetti ed è ufficiale, quindi torna in Italia per 6 mesi allo Spartak di Mosca in prestito, domani le visite mediche. C'erano anche voci su Muñoz del Palermo, che è in scadenza di contratto. Zamparini però ha detto: no, aspetta, io l'ho pagato, non ve lo regalo, quindi non so se potrebbe essere una mossa aggiuntiva o se Bocchetti va a coprire il fallimento di questa trattativa. Vivendo lo scopriremo. Marco Varese, buongiorno. Buongiorno, io rapidamente sposo molto volentieri la tua filosofia, la sua filosofia, il tentativo di come dire, razionalizzare questa miriade di polemiche arbitrali. In questo senso, anch'io ho perso il conto recentemente degli episodi, io sono tifoso milanista, ho perso il conto degli episodi più o meno favorevoli sia a Roma che... Non ho memoria storica proprio su queste cose, perché non, neanche me le posso scrivere, non mi entrano in testa, cioè esatto. È proprio per una forma mentis mia, io mi ricordo che la Roma Genova ha avuto una mano, a Udine ha avuto una mano, col Sassuolo ha avuto una mano, poi ne ha avute altre contrarie, con l'Empoli ha avuto una... Esatto, ma quello che mi colpisce è che questa serie di episodi non fanno altro che confermare che gli errori arbitrali, più o meno gravi per carità, rientrano nella sfera degli episodi, punto e basta. Ma mi colpisce che non ci sia nessuno illuminato nel mondo del calcio, che poteva essere Benitez, Conte ai suoi tempi, Garcia adesso, presidente del Napoli, ho capito. Che si alza e dica, Marco, e dica ognuno, sì, ognuno fa la sua battaglia, cioè ognuno fa la sua guerriglia psicologica, quello che dico io. È palesemente un atteggiamento da bar anche da parte del come dire, degli alti vertici del calcio, sistematicamente esordire dicendo a me. Ho capito, però se la vogliamo guardare, vogliamo guardare in maniera maliziosa, uno cosa potrebbe dire? Che gli strilli di Garcia per lungo tempo e per Benitez dopo la partita con la Juventus hanno pagato qualche dividendo, se qualcuno vuole essere malizioso, potremmo anche dire questo. È una strategia, ma a me spiace tutto qui. No, ma anche a me, quello che... No, ma allora a me non spiace se si sceglie questa sorta di così di mind game, no? Cioè, fa parte del gioco, e come diceva prima giustamente Giampiero Timossi, fa parte del gioco non solo in Italia ma ad ogni latitudine, che Mourinho non è che ora che è in Inghilterra le fa anche lì le battaglie contro gli arbitri eccetera eccetera, Wenger a suo tempo, Ferguson a suo tempo, un sacco di schermaglie di questo tipo le troviamo anche all'estero, poi magari non andiamo a cercarcele o non le conosciamo, non andiamo a sottolinearle abbastanza, oppure com'è più probabile non sono cose che durano lo spazio di un mattino, lo spazio di un paio di giorni, non sono cose che ci tiriamo dietro per mesi come invece accade in Italia. Quello che dico io è che se tu decidi di praticare questa strategia, semplicemente mi limito a osservare come secondo me un errore di comunicazione in casi come quello di Garcia contro l'Empoli e di Benitez ieri, non dire questa volta mi è andata bene, altre volte ci è andata male, cioè l'orchestra ha suonato non proprio per noi, questa volta l'orchestra arbitrale ci ha regalato un paio di note che ci sono andate per il verso giusto, ma questo non farebbe altro che rafforzare la tua credibilità nel momento in cui poi vai a battibeccare in altre situazioni o a creare pressione agli avversari in questo modo su altre situazioni. Semplicemente questo. Augusto, Treviso. No, non è Treviso, è Terni, la provincia. Ah, Terni, mi scusi, ma hanno scritto Treviso. Ma non è un problema. Non berremo il prosecco, berremo... Cosa beviamo a Terni? Vini locali, non ho grande dimestichezza, anche perché non sono del posto, però ci vivo da un po' di anni comunque. Però si mangia molto bene. Assolutamente sì, questo sì, è da consigliare. In ogni caso, dica. Ecco, per me che ho visto da ragazzino il Milan di Nereo Rocco, da più grande quello di Sacchi, sì, oggi è qualcosa di allucinante, e dico che per fare le grandi squadre ci vogliono i soldi. Se uno non li ha più i soldi, la vendesse la squadra, perché con le cosiddette pezze, come dicono a Roma, punti dei punti, non si combina niente. Anche perché poi l'assurdo è sprecarli. Perché nel momento in cui tu mandi via tre allenatori e continui a pagarli, sì, i soldi li stai sprecando, così come i giocatori li strapaghi, poi non giocano perché sono, prendi SN per esempio, che è l'emblema della persona sfinita, finisticamente sfinita, strapagata, cosa ci fai? Sì, strapagata nel senso di ingaggio, guadagni un mucchio di soldi, SN, in questo hai ragione. Però mi limito a osservare che per vendere qualcosa bisogna essere in due, no? Cioè uno che vende e l'altro che compra, no, Augusto? Sì, per carità, non ho dubbi, ma è a monte, cioè è a monte la cosa. Non posso io partire con un presupposto del genere andando raccattando gente ormai arrivata, strapagarla e poi che cosa raccolgo? Niente. Anche perché io, nella partita di con la Lazio, quella che c'è stata sabato, che ho visto, si vedeva una squadra completamente ferma, cioè anche quelli un po' più giovani erano fermi, non correvano. E questo non dipende però da... non c'è interesse, non c'è voglia, oppure c'è una preparazione approssimativa. Una delle ragioni tecniche che sono state avanzate per descrivere l'ultimo orrendo momento del Milan è quello di un richiamo natalizio che è stato sbagliato con il viaggio laggiù da Dubai o dov'era. È una squadra che chiaramente non è in condizione fisica. Poi, come diceva giustamente prima Stefano Eragno, ed è un fattore molto importante, testa, cervello e gambe sono collegati in questo momento. Giocano i giocatori del Milan con enorme pressione addosso e con ogni probabilità non hanno nemmeno la personalità o l'esperienza per gestire questo tipo di tensione. Sono tutte ragioni che possono avere diritto di cittadinanza nel descrivere il momento rossonero. 800 24 0024, Borsa, e do una botta di vita a questa trasmissione, e noi la ringraziamo. 1 2 3, tutti convocati. Luciano Firenze, buongiorno. Buongiorno dottor Genta. Io mi faccio salutare subito il mio interlocutore privilegiato e preferito ogni epoca, Leo Turrini, ciao. Ciao, non voglio sottrarre spazio a Luciano, sono fermo sulla Pero Cormano. Come mai? Perché traffico, vi do le informazioni. Una Jeep Renegade affidata a Kimi Raikkonen è in panne, quindi in panne. Non preoccupatevi per il rallentamento, tanto arriverà in tempo la presentazione della nuova Ferrari, che è in programma venerdì. Sì. Vai pure avanti, caro Gento. No, magari. Sentiamo Luciano, dica. No, nulla, volevo prendere le difese di un pazzo, cioè da prendere le difese MXS, ma no, ho detto una provocazione, prendere le difese, perché lì non c'è da prendere niente. Però ci sono dei giocatori che si attirano sempre certe situazioni e lui va a cercarsi, però non sarebbe anche il momento qualche volta di punire anche qualche volta provocatori? Cioè questo mi dà, lui dopo va a cercarsene sempre, perché però ci sono delle situazioni tante volte particolari. Ora che Mauri lì debba prendere solo un cartino giallo, guarda, era belle 20 minuti che si becchettavano, che l'ha andata a cercare una pedata e tutto, cioè questo mi... Ti ricordi una volta Ibrahimovic con Aronica e Nocerino? Sì. Ibrahimovic fuori tutte le domeniche per avere lo sberletto a Aronica. Nell'altro uguale niente. Luciano, però nello sport Leo Turrini mi insegna, se tu sai che vai a giocare sulla testa giusta, la provocazione è può essere uno strumento, no? No, l'ho detto subito io. Però voglio dire, ci sono delle situazioni, qualche volta ora questa situazione, ma anche su rigori, ma c'è gente che si butta di continuo e sono d'accordo, però non mi sembra un motivo valido per andarlo a prendere per il collo, beccarsi 4 giornate di squalifica, mettere in difficoltà tutta la tua compagnia e fare una figura di questo tipo. Poi i giocatori, lo sappiamo, spesso vanno in campo e qualche frizzolazzo se lo tirano, no Leo? Ma stai a parlare di giocatori, sto Mexes l'hanno squalificato 4 giornate, hai detto? Sì. E cosa vogliamo fare? Il ragazzo un po' impulsivo. D'altronde voi del calcio siete della gente originale. Ho sentito Cassano, scusa se faccio, sì, sono fermo sulla Piero Cormano perché dicevo Raikkonen è in panne con questa Jeep Renegade. Ho sentito Cassano dire andrò a giocare negli Emirati Arabi o in America, negli Stati Uniti quando non corro più, quando non avrò più voglia di correre. No, ma fermatevi, Cassano non corre più da 12 anni, cioè, qualcuno di voi deve avere il coraggio di dirlo, lo voglio dire Pardo, che per Cassano voglio dire è un fratello, no? Ma almeno tu gente, io quando sì, è vero, cose, è vero, hai ragione, Cassano, hai ragione, quando hai ragione. Smetterò di correre, allora io ve lo dico, meno di così, meno di così è difficile, Cassano tu dici. È come il mio idolo Kimi Raikkonen sulla Ferrari, è fermo dal 1999-2000, hai capito? C'è un blocco anche sull'esterno Reggio Calabria, però lo so cosa tu mi vuoi chiedere, lo so. Cosa ti voglio chiedere? Tu vuoi avere qualche informazione sulla SF? No, io peccato, più che altro voglio far sentire al mondo una cosa. Cosa? Viene un pezzo per volta, la presenta 31 la presentazione, sì. Adesso la Ferrari, abbiamo la voce. Sta facendo una cosa come un mosaico, un tassello, no? Allora, Raikkonen è fermo sulla Piero Cormano, è il primo tassello perché arriverà e aggiungeremo anche lui. Vettel è bloccato sulla Salerno Reggio Calabria, no? Però vi abbiamo fatto sentire il rumore della SF15T, da cui lo sappiamo il nome non lo so, e la voce. Gente, tu sei sei un genio, no? SF, tu vuoi sapere per cosa sta SF, no? Allora SF a livello diciamo così ufficiale per scuderia Ferrari, giusto? Sì. Ma sarebbe intuitivamente un acronimo troppo banale. In realtà su SF munitevi di penna, poi tracciate voi la crocetta dove meglio preferite. Penna, inchiostro e calamaio? Perché SF potrebbe stare uno per saremo famosi. Cioè, questa macchina incredibilmente si rimette in moto, esce dall'ingorgo sulla Piero Cormano e vince il mondiale di Formula 1. E io vi dico auguri se vi bevete questa. Uno. Due, SF potrebbe stare per saremo fiacchissimi. Che onestamente, se uno cerca di prevalere il realismo, insomma, rischiamo che l'ipotesi 2 sia la più, diciamo così, convincente, perché la Mercedes ha un grande vantaggio. Vedete che Hamilton se la prende talmente tanto cara che è sempre a sfilate di moda, gira in mezzo a queste patonze, incide dischi di rap, tutto fa fuorché per fare la nuova stagione. Ti dà l'idea che pensi di aver già vinto, no? Sì. La terza soluzione su SF sta per siamo forti. Siamo forti. Una squadra fortissima come cantava Checco Zalone, no? Sì. Uno può anche immaginare che vada così. Però, insomma, ci vuole molta, molta prudenza. Io e te ce lo siamo detti spesso. La Ferrari è come Cassano, non corre. Ecco, questo hai capito? Non corre, ma non è detto che si debba finire anche con Raikkonen e Vettel negli Emirati Arabi o negli Stati Uniti. Potrebbe stare anche per saremo fortunati, magari mettendoci un più tra parentesi, ma qui poi scomodiamo la diabendata. Anche perché poi c'è anche, secondo me, se posso permettermi, caro maestro Genta, anche quella T finale, no? Sì. Che starebbe per turbo, no? Sì. Perché sapete che Formula 1 l'anno scorso. Ora, ma voglio dire, ma si può? La Ferrari ha un motore che non va, che ha 40, 50. Ma no, che va, te lo faccio risentire. Fammi risentire il rumore, l'ululato. Cosa dici che non va? Va. No, ma senti, già questo rumore ti sembra la sirena della nave di Schettino, fatto sentire così, almeno la radio. Ma voglio dire, però. Cioè, allora abbiamo 50 cavalli in meno della Mercedes. Obiettivo 1000 cavalli, dai, obiettivo 1000. Voi mi evocate turbo. È come parlare di corda in caso dell'impiccato. io al posto della T avrei messo, non lo so, PC Pero Cormano, ecco, SF15 Pero Cormano, come dire. Siamo, no, ma ascolta, Leo, siamo in viaggio, mi sembra di parlare del Milan e dell'Atalanta che vince a San Siro. Allora, se oggi, anche dell'Inter, mettici l'Inter, mi sembra di parlare di queste cose qui. Perché se oggi la Lotus presenta la macchina, non c'hanno un euro bucato e dicono il budget è più o meno quello dell'anno scorso, cioè niente, e dicono però puntiamo al terzo posto, e beh, allora ci prova un momento. È momento cosa? No, devi informare quelli che seguono te, Barisoni, su Radio 24. Quest'anno la Lotus cambia motore, lo so che cambia motore, ha montato il Mercedes, quindi tu dai ragione a me. Ma resta una scuderia senza quattrini, giusto? Sì, allora. però montano la bestia. Ora, questo motore, questa power unit di questi tedeschi, voglio dire, uniamoci a Tsipras, amici di Radio 24, e a Syriza, anche noi della Ferrari. Basta con questo strapotere tedesco, pensare proprio dall'euro alle politiche di rigore, bilancio, austerità. Noi vogliamo Raikkonen, l'unico tedesco che accettiamo è Vettel, perché è venuto in Italia, ma per il resto basta, siamo tutti con Tsipras. Votiamo per Syriza anche in Formula 1. Hai fatto bene a citare la Lotus. Questi non avevano neanche, sembrava il vestito vecchino. L'anno scorso hanno fatto 20 Gran Premi, credo non ne abbiano finito uno. Montano il motore dei crucchi di Stoccarda immediatamente. E dicono, vogliamo, arriviamo terzi, però, siamo la terza potenza del mondiale. Budget uguale all'anno scorso. Allora lì fermi sulla Pero Cormano, con Raikkonen che non gli entra la marcia, sul Relegate. Fatto a Melfi, ma insomma intanto la Ferrari fa sentire l'ululato, Alonso invece fa la sfilata, mette la tuta della McLaren, prima immagine ufficiale, la macchina ancora non si vede, però questi fa sentire il verso, quell'altro va a vedere la tuta, un pezzo per volta, ci siamo, perché giovedì si alzano i veli sulla McLaren, sì. Venerdì sulla SF15T di Raikkonen, Pero Cormano, Vettel, Ferrero, Reggio Calabria, e poi domenica sono tutti in pista Jerez, comincia il mondiale all'insaputa di tutti, perché c'è la prima sessione di test, ci sono tutte le macchine nuove, sì, per 4 giorni, e lì riusciremo, carrambata, un bel carnevale, sì, un bel carnevale, capiremo, anticipato, capiremo qualche niente, cosa, niente. Cosa vuoi capire? Signor... cosa vuoi capire? No, vabbè, come hai capito, a Ferrari come Cassati non corre, vabbè. Senti Leo, per la tua gioia ti faccio sentire il traffico, poi voglio chiederti un'altra cosa, prima di salutare Cassano, fammi sentire Cassano, vuoi sentire Cassano? No. Dopo ti faccio sentire anche Cassano, aspetta, prima il traffico, che è la nostra certo. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. E ci può stare. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Leo Turrini, non è perché ti voglio bene, come tu ben sai che ti dedico. No, è perché oggi ho scoperto che l'amore può portare ad uno sconto anche in questioni di doping. Ah, sì, ma io posso dirti una cosa? No, beh, mi viene in mente a te, autore del Cowboy e del Pirata, che invece, vedete, pagina della Gazzetta, pagina 29, bugia per amore, Costner ha avuto, Carolina ha avuto uno sconto di pena, e sotto il povero Lenz che non lo ama nessuno, se corressi oggi non mi doperei. Ah, allora, nessuno gli vuole bene, No, però devo dirti una cosa, sulla vicenda di Carolina. Sì. Allora, onestamente... perché io so che tu sei un uomo che ama, no? tu denunceresti la tua compagna? No, essendo no, tu completo. Allora, guarda, no, che no, nel, infatti, no, ma nel codice penale, sì, sì, una moglie, un marito, certo, non possono essere chiamati a rispondere quando si tratta del coniuge o del compagno, del partner, eccetera. Se noi, guarda, io parlavo con Guido Rispoli, che è il procuratore capo della Repubblica di Bolzano, che è l'uomo che ha fatto emergere le bugie di Carolina nell'inchiesta penale sul doping di Schwartz. Lui è un grandissimo magistrato e mi ha detto: ma per me la cosa a livello sportivo, così come a livello penale, non andava neanche processata. Perché non le si può imputare, siccome non c'entra nulla con la storia del doping del marciatore, no? No, farle no, pagare, certo, di aver detto mentre era sotto le coperte. Ha detto qualche bugia, però ha raccontato, sì, qualche frotto. Ho capito, ma non è punibile. Questo io lo dico con grandissima estremità. Per quanto riguarda Armstrong, ho letto che minaccia addirittura di tornare. Ma dove? Non hai letto? Che sì, dico, ma potrei. Credo, no, ma voglio dire, insomma, adesso io e te ne abbiamo parlato spesso. In particolare nel ciclismo, ma non solo nel ciclismo, io penso che la vera lotta al doping debba essere fatta cominciando a perseguire i medici che fanno, firmano le ricette farlocche, i farmacisti che mettono a disposizione questi prodotti, perché gli atleti, come diceva proprio questo procuratore Rispoli, in realtà sono l'anello terminale, o se vuoi sono, diciamo così, il lato debole dell'intera cosa, perché si fa presto di ma deve essere l'atleta a rifiutare. Ho capito, però tu mettiti, io non voglio difendere nessuno, io, il doping, per l'amor di Dio, va colpito durissimamente. Schwarzer, marciatore, vinceva, si trova all'improvviso che arriva ventesimo, sì, e tutti gli dicono: ah, ma guarda che quelli che ti battono prendono questo, questo, questo, questo e questo. Allora lui, sono d'accordo, non dovrebbe prendere niente, dovrebbe continuare ad arrivare ventesimo senza prendere niente, ma invece di squalificare solo lui, bisogna squalificare chi gli ha fatto certi ragionamenti, chi gli ha trovato le medicine, chi gli ha detto vai là che ti procuri questa cosa, perché se no, insomma, esercitiamo un rituale diritto all'ipocrisia, sì. Però queste sono mie opinioni, non te le voglio attribuire, no, ma poi, perché tu, ma gente, che sei poi il più bravo di tutti, ma no, ma Leo, ma che poi scopri anche che alla adesso c'è, sai, è venuto fuori il pieno dei marciatori russi, che siamo alle soglie del doping di Stato, no? Dai, lo squadrone russo della marcia li hanno presi e hanno detto: ok, vi facevate tutti di benzina e non, adesso non marciate più. Quindi è un ambiente così, no? E quindi completamente stati iscritti al bidor di certe discipline, sì, perché dal primo al decimo, eccetera, eccetera, tutti facevano ricorso a certe cose. Io non voglio difendere nessuno. Schwarzer è giusto che sia squalificato. Secondo me, francamente, contro Carolina c'è stato un accanimento eccessivo, perché lei non ha fatto nulla, diciamo così, sul fronte del doping, sì, ha detto una bugia, sì, per amore. Aiutare quello che all'epoca era il suo ragazzo, e anche io e te siamo stati giovani e ci è capitato, mentre eravamo fermi sulla Piero Cormano, purtroppo questa Jeep Renegade di Raikkonen si rimette in moto. Speriamo che arrivi Vettel a bordo di un Ducato guizzante con quel rumore di motore che tu ci hai fatto sentire e ci hai eccitato tutti tantissimo. Per salutarti e darti appuntamento nei prossimi giorni, sentire, sì, te lo faccio risentire, Leone, salutarti. Sì. Ci sentiamo nei prossimi giorni quando tolgono il velo. Saluto vediamo Cassano, che sta sarà fatto troppo. Sarà Cassano, fatto. Forrest Gump ha corso troppo, va bene. Ciao, un Leo. Abbraccio. Ciao, grazie. Andrea da Brescia, io la ringrazio per essere stato in linea con noi. Buonasera, una cosa faceta è una cosa seria, comincio con quella faceta. Sì. Caro Scienza, se lei fa una ricerca adesso in internet, sì, e mette Benitez, paraculo, sì, arbitri, troverà le dichiarazioni di questo allenatore che ha detto di queste cose. Questa è la cosa faceta. La cosa, sì, seria è questa, io credo che anche se Garcia sono persone molto intelligenti che sanno benissimo cosa i tifosi vogliono sentire. La Roma non sta andando così bene quest'anno, il Napoli ha perso dei punti imbarazzanti, per esempio in caso con il Cagliari e l'Empoli. ma siccome gli italiani nel calcio come nella politica vogliono sentirsi dire quello che piace loro sentirsi dire, usano giustamente, come un giocatore si butta in aria e cerca di fregare l'arbitro, così un allenatore, un presidente si usa questa tattica per tutto sommato ottenere le cose. Non c'è niente di nuovo. Nessuno dice che ci sia qualcosa di nuovo. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, se lo ricordi, perché il calcio è così, e nel calcio se ricordi che sempre vince chi fa un gol di più. Sì. In qualsiasi modo. Poi vediamo, poi stiamo a valutare se quel gol era in fuorigioco oppure no, eccetera, eccetera. Qualche volta, però non sto dicendo che ci sia qualcosa di nuovo, dico semplicemente che fossi stato in Benitez o in Garcia avrei fatto dichiarazioni di tipo diverso, soltanto questo. Poi ognuno fa il suo gioco e ha diritto di farlo, non ci sono discussioni su questo e non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale, sono d'accordo pure su questo, Andrea. Ci può stare. Mario, provincia di Carbonia, Iglesias, andiamo in Sardegna. Sì, ciao Carlo, ciao. Buonasera a tutti. No, tre cose. La prima cosa è che il doping, il dramma del doping non sono i professionisti ma sono gli amatori. Io faccio mountain bike, è un dramma perché su internet trovi tutto e tutti, ma per l'uscita domenicale fanno doping per battere pochi sacchi. Sono d'accordo, ma io infatti ho sempre detto che quasi estremizzando che la lotta al doping andrebbe fatta in maniera selvaggia sul fronte degli amatori, sul fronte degli atleti, delle categorie giovanili, dove tanto si scappa anche il morto e dove non ci sono controlli seri, dove gli atleti non sono monitorati, dove il doping che si usa e si usa è di dubbia provenienza e così via. Cioè io impiegherei e impegnerei gran parte delle risorse dell'antidoping proprio per rastrellare a tappeto su quei fronti quelli che fanno uso di doping e quelli che forniscono loro il doping. Poi parliamo dei professionisti. Dica. Una cosa solo, poi Ferrari tutta la vita, perdente, vincente, la Ferrari è un sogno, sì. Mercedes non lo è. Altra cosa ancora, Benitez e Garcia non sono due brutte persone. Brutte, no, non sono d'accordo. Nel senso che non è la prima volta che Benitez lo fa in Italia anche in Inghilterra. Sì, ma infatti stiamo dicendo che queste cose non abbiamo l'esclusiva di questo tipo di polemiche, di questo tipo di mind games, di questo tipo di giochini. Quindi la prima volta che lo fa in Italia, l'aveva fatto anche in Inghilterra, lo sappiamo benissimo perché è cronaca. Però non sono brutte persone, su questo non sono d'accordo. A me sono due personaggi e due allenatori che invece piacciono molto, al di là di queste battute, di queste uscite. A me piacciono molto, non sono brutte persone, no. Grazie, Giorgio Luca è d'accordo con me, nostro autore, grazie. Fabio Cantadori in regia, Daniele Bonamici in redazione, Massimo Davanti, ma purtroppo dobbiamo chiudere perché mi spengono il microfono, ma se vuole ci sentiamo domani dopo il GR delle 14, ciao. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti, per un gioco antico, con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba e gli squilli. E si intravede lontano il sottopassaggio, il divin codino, del divino baggio.